vita in ogni trovata che Valdoria ci è signora. Non temere di andare sempre oltre, spazio e bravate, oltre il tempo, spazio e bravate. L'allegra brigata è proprio tutto, e il duro mestiere è tenerla costante. Si lotta ma tocca, perché il mondo ha il senso, non in me o